lingua, avanti ne mando a casa una di bocco, così fate un ricambio. Avanti mando una lingua di bocco, così alla manco di fare un ricambio. E comunque lo vedo a tutti nuda se sia con te. L'indirizzo sempre lo stesso, così ti mando una lingua di bocco, ti mando. A vedere se fa vedere qualche parola in più. E ridi, ridi, ridi a futtidini tu. E anche io rido lo stesso, cosa ti gridi? E ridi, ridi, ridi, ridi, sotto che sei mutato bene. Ridi, ridi, io rido a pranzo oggi che faccio camerone, mi. Se ti interessa. Ciao, ciao. Ciao, ciao. A poi tu sei, ecco preso no, a pranzo faccio camperoni, L1, mi dici Dio, giganteschi. E a vero, e allora buffonete. E fa primo cannelloni, cannelloni. Drommi, drommi. E già venne poco di essere dormita in questo canale, proprio. Oggi cannelloni e gamberoni. Oh, e cos'è di essere poco? E faccia come se fosse a casa sua. Ciao Natali, ma vedi su chi sta si chi sta piazza, dalla macchia bassa di Sassari, non è compreso. Chi tu sta all'urgente, mi. Che sotto a casa sua aveva un barbe. Gli andano tutti in briagone in chi gli andano. Oh signor, io non mi sento per niente bene in questi giorni, non stavo entrando per quello giù. A me giù il vedo, oh, Natali, dove anda? Ho detto che non mi sento bene in questi giorni e non stavo entrando per quello, capito? Non avevo gana. Vabbè, d'accordo. Non avevi gana, ma senti cosa vuoi fare, bisogna dire a campare ma stessi, non c'è problema. Ma chi si sente di me, chi si nani, mi può cagare le idee. Infatti ti voglio mandare a casa una lingua di bocco, così alla macu imparano a farmi dare. Ho parlo macu di buoni, la lingua del ricambio, anche se ha rimesso la suia, con la lingua di bocco buoni fare un ricambio. E un raggio mezzo pochetto, un chivio, vanno in capura, come si chiama? Ne tolgo la lingua e gliela mandiamo. E infatti. E cosa vuoi fare? Purtroppo così. E vabbè, io sono caio cava a me. Ma non so cosa fa, quasi quasi vado a farmi un giro in barabattola, che caro sa, boh. Io non mi sento bene, non sono uscito per nulla oggi. Avanti fra un po' come vengo a cucinare, a chi intanto non viene gana, quando non ce ne voglia non ce ne voglia, non c'è nulla a fare, mi ho acceso a vedere, stavo facendo roba al computer, perché mi ho fatto un computer nuovo, perché l'altro era troppo vecchio, cioè aveva 15 anni, ed era sempre andendi, ed è andendi ancora, non è che l'ho smontato quello, no? Che me lo uso, o sai che Bonghiani affozza Windows 11 in questo nuovo che ho fatto, perché l'altro non è predisposto, ma questo sì, e mi possono fregare, capito? Ho capito, anch'io ne ho due computer, uno vabbè è un po', no vecchio nel senso che è vecchio lui, no? Vecchio come tempo, già lavorato, anche perché quello lì prima non era mio, poi me l'ha regalato, e allora ce l'ho sempre allo stesso posto, non si è spostato mai, adesso ne ho uno da Natale, ne ho uno nuovo. Lo sto usando poco e niente, sto usando sempre quello più vecchio, che ancora funziona alla meraviglia, per cui non c'è problema. Anche anche ieri ho messo l'SDR, anche se mi hanno toccato dire romani che bisogna far caridare, fate di chi fa i cani, fate, per parlare così alla radio è meglio niente, guarda, fate di chi fa, tu ne dico da poco di parolacce, che sono romanacci disgraziati. Sì, non solo i romani, diciamo che sono tutti maleducati. E poi dicono che sono anche radiamaturi, ma vai, vai. Sì, quelli dovrebbero essere radiamaturi perché sono in SDR, certo. Ma lì c'è la mondezza dei radiamaturi, non sono i veri radiamaturi. I veri radiamaturi sono altre persone educate, non quello. Quelli sono la mondezza dei radiamaturi, fanno schifo, fanno, dicono poco, si parolacce che c'è romanica. Io capisco che parlano fra di loro, però la radio si sa, diffonde i suoi consigli, diffonde dappertutto, in tutto il mondo, per cui dovrebbero essere un pochino più educati. E poi non potrebbero neanche parlare tra di loro così, a fare salotto come facciamo noi, non potrebbero manco farlo come regolamento. Capito? Invece si ritrattano peggio di rubaracchino. Ma cos'è il regolamento? Quelli non ne conoscono del regolamento, quelli hanno l'unico regolamento loro è la maleducazione, quello sì, ma care dai. Infatti ho ascoltato 10 minuti, poi ho cambiato perché mi stavano facendo anche schifo. Non solo Ede, ma tutti quanti dei romani intrighi, anche quelli che non c'entravano niente con la loro questione. Ma care dai, che gentaglia. Sì, io non sto più né ascoltando né nulla, proprio me ne farà tutto. Non ho più voglia, diciamo così. Infatti in questi giorni non stavo entrando manco qua, perché non mi sentivo bene. Ma vabbè, non passerà. E già passa, è l'obbligo che passa, ci mancherebbe altro. Vabbè, comunque non stai ascoltando, non hai messo niente, guarda, non hai perso niente. Ieri, vabbè, stavo parlando io sul 12 con Franco e con Tino, per cui sia mezzogiorno e mezzo, almeno 20, più o meno, poi è la ora quasi di pranzo e ho chiuso. Per cui va bene lo stesso, non c'è problema. Per quanto riguarda poi il resto, la sera non lo so nemmeno accendendo. Ui, che cosa la tenda fa? Intanto lo vendi solo. Ma con cani, beh. Arrivani a sera, sono entrato a chi ha intesa Emanuele Giamendi. Ed era mio, Emanuele, Tonino e Tore. Tra niente non ha gentiso. Io Emanuele non lo sento, purtroppo io Emanuele non riesco a sentirlo. Lui ha un antennino, per cui qua non arriva. Pazienza, pazienza. Vabbè, cioè, mi sarebbe piaciuto ascoltarlo, a lui, a Tonino, a Tore, lo stesso. Ma se non arrivi, vabbè, io non l'ho acceso ieri, e dunque, ma tutte le volte che voi parlate con Emanuele, io non lo sento mai, non riesco a sentirlo, perché no, se non migliora la sua antenna un pochino, almeno un pochino, non dico molto, ma almeno un pochino per farsi sentire, purtroppo, e mi dispiace non sentirlo, perché con Emanuele noi ci conosciamo da tantissimi anni, per cui mi dispiace non riuscire a parlare con lui, a ascoltarlo, insomma, ecco. E io ormai penso uno su 50 anni, a Emanuele, è che c'ha un antennino di macchina, lui e non arriva da te, capito? Io lo sento benissimo qua, invece a te non arriva, proprio a chi ha il antennino di macchina. Non ce l'ha sul tetto l'antenna, capito? Se ce l'avesse avuta sul tetto, da dove sta, arriva in Ugnaruco, solo che non le vuole mettere, li ha di Sant'Ennino e fa vita con un circondario, da. Lo so, se non ha la possibilità di migliorarlo, pazienza. ci possiamo fare niente. Eh sì, no, e poi tra l'altro io conosco la famiglia, ho conosciuto tutta la famiglia di Emanuele, padre, tutti quanti, insomma, ecco, anche perché diciamo che una zia anche era sposata con mio cugino, eccetera, eccetera, per cui non sono parenti miei, ma diciamo che erano praticamente nella famiglia di mio cugino, e dunque di conseguenza io li ho conosciuti tutti, soprattutto Angelo Buonanima, mi è piaciuto molto quando è scomparso, eravamo amici, più o meno, vabbè, lui un pochino più grande di me, comunque eravamo amici, di tanto in tanto ci vedevamo e con molto piacere. Sì, lo so, anch'io ho conosciuto tutta la famiglia, la mamma di Emanuele, Emilio il fratello è stato a scuola con me, addirittura a Maida Zettigunicimo Bogu di sua famiglia, a signor Angelo, a tutti ho conosciuto io. Certo, poi l'ultimo che era scomparso chi era? Elio mi sembra, Elio lo stesso, anche lui, pugile, tutti pugili, anche Angelo era pugile, poi l'altro, tutti pugili erano. Non lo so se ancora sta lavorando, Elio che lavorava lì all'Enel, non so se c'è ancora o se è andato in pensione, ma suppongo che sia andato in pensione anche lui adesso, non lo so, la verità, sono un bel po' di tempo che non l'ho più visto. E io lo stesso, un bel po' di tempo che non vedo nessuno. A Emanuele mio ho visto un po' di tempo fa, che ero all'INAM lì e stavo facendo, prendendo un appuntamento, e l'ho visto lì, capito? Vabbè, a rimani saremmo fatto 4 risaldi e tira a campa giù. Beh, certo che sì, d'altronde. Sì, d'altronde. Poi era anche campione italiano, è stato il Vigilantes. Campione italiano del pugilato, è stato. Va bene, ormai sono passati gli anni e non ho più visto nessuno, a parte quelli che sono deceduti, purtroppo, con tanto dispiacere, però li ho conosciuti tutti e ce li ho sempre nel cuore, la verità. Sì, erano anche gente di famiglia, dalla parte di mio fratello, capito? Quindi conosco a Gianni, che sarebbe il cognato di mio fratello, conosco un bel di enti di questa famiglia, cioè tutta la famiglia di Gunicido, da. Certo che sì, vabbè, purtroppo gli anni passano per tutti, da lì, e piano piano, già lo sai com'è la storia, no? Purtroppo è così, ma comunque interessante che sia Mesani, almeno fin quando saremo in vita, quello che conta è rimanere sempre sani e tranquilli. E infatti, sia Mesani di Via Ghido, però sani non semmo, perlomeno io. Beh, c'è che ne abbiamo tutti, non è che non avevamo, no? Capita, ci mancherebbe. Tu pensi che ci siano persone che non hanno la ciacca? Ce li hanno i bambini, figurati un po' se non ce li hanno gli uomini grandi come noi. Diamo qui via. Lo sai, che lo conto, vieni sempre battuti. Purtroppo è così. Non c'è niente da meravigliarsi, già lo sapevo. Vabbè. Luca, mica c'è meno che fa vedere di lui, ma non intendi, ma insomma, o ti devo regalare un trappolo, ti devo regalare, fai tappati la Lecci. Ma voi sa, con i cristiani, chi su Luca, no? Boh, voi sa sempre azzurra, l'uccidendo c'è la graviglia vea che va, cazzavante, e vi si raccudo dallo del razzo. Una cosa graviglia, che non fa manco graviglia, più non fa. La magnata, la seppia si è mangiato, la gravida si è mangiato, se vuoi immaginare. Una scena, cazzo, non ti dà di udienza, no? Oh, i. Ma carità, e io sai che dogna lì andare a messa, mi ha mangiato il sera, andare a messa, andare a tirare un cotone tra l'obliti. Non lo sapevo io, vecchio, vedi, ma vai, roba nuova che mi hai detto, tu. Questo Luca è una scena, eh. Ogni lì, doveva andare a tirare un cotone, e poi la sera andare a suonare in campane, buro. Che bisogna ancora che ti campani a quella cosa, non so, elettronici, no, come i tempi moderni, no, vanno ancora le campane con il cannavo, no? Domande tira. Tu dire la cosa, insomma, la campana, così. Allora, e la poi canta, tira che ti tira, rosetto se si tira, tira che ti dota, rosetto si nascosta. In musica però, lo vale, non ha parole, in musica. E a chi dura la memoria? La carità, lui. Ah, vai, resendemi, resendemi, a sbappo, gratis, soprattutto, lui ci vive, vedi, dare cose gratis ci vive, e dai, cose ho gratis. Se mi mollete, vedi. Non mi è, la carità, voi, vedi la chissù, vedi la chissù, che se non la gioco preso, mi vedi la chissù, anche io ormai ci ho messo un buon orientamento di la donna che dai della voce. Duera, Luca era. Ha detto mi molleggi me. E che ti manteni? Non ti devo mantenendo, no, Luca. Beh, che doveva essere, quello può essere tu. Si è preso la lingua, quanto fa già sei tu, ancora hanno per la giovannata la lingua di boccolo per sostituirla. Senti sotto ai baffi, Edo, non hai compreso. Lo so qui, allora magari si sta mettendo la battita dei bicinetti che bisogna cercare la luglia, no? E il suo campetto che fa e terra battuta, allora si sta mettendo la battita lì, e tu hai sopra il terrazzo e mettendo la battita. Ogni tanto è così una lucidata la graviglia. Infatti, ogni tanto si lucida già la graviglia. Da poi ogni tanto lucida già l'antenna, buco. E lo sai, ogni tanto di fare l'antenna è così una lucidata, da poi te l'ho piazzata. Sì, infatti, è un uomo impegnato, Impegnato, Insazzito, cosa è impegnato? Insazzito troppo, Vero è Luca che dice di Giulio. Non l'ascolto, ciao. No, parla, cosa stai all'ascolto? Luca, la partita se stai guardando, no? Hai crocco, un biglietto deve pagare per pagare la partita, e allora, non dico che c'è dalla sala un campo, le casa che deve mai dare gratis, no? Allora sarà da Valo del razzo, dummi, e saprai dare la partita gratis. E allora, ma non so io. Allora come fare giusto se non altro? Pigliate un caffè Kimbo, pigliate un caffè Kimbo, pigliate, o un tolardo, il biglio, da lì tu pare che vai sotto a casa tua. No, quindi a solo vino, Gisù. Gisù pare, quindi andare l'amico di tutta la zona, tutti in Kivi andare. E mi ha dato Gisù Batista che trabaglia me. Vero è Luca, cazzo, non ti dà udienza, no, maledetto. Tu sei stravagante, stravagante, no? Non è che puoi ciamballo così da un momento all'altro, no? Prima di fare dipende anni di coso, di cura, ma pure farsi consensevole a lui che dice lì. Però intanto l'ha già fatto papillà, non li parlavo li ha detti. No, non ci sono niente io, no? Anche con la radio che non funziona, con cosa ha detto, vabbè tu sei vicino a Edo e fa questo, io sono così lontano, non lo intendo, ma una radio che non serve, e fa questo, però è pure importante a vedere se ti intendo, oh Luca, Piperone. Non palla! Cosa palla? Fissamente lo baracchino se l'è guardato a posto di Nilo silenziato, non è possibile. E allora, ha fatto la pini del baracchino mio, gatta, che fatto Nilo Vemmo, se è guardato, è pure un rusoio, non ripira il suo baracchino. solo io, la fa carità, figurati, se sta mettere, allora tu pensa, vedi a punire la ruggine al cagno, lo cagno di tutti i saldaturi è difficile di me, e poi ho posto la ruggine anche sopra la chino, forse ha fatto i saldaturi con lo cannello, aveva quello per un ferro, la sega con il cagno, boh. Sì, è che con Luca non bisogna fidarsi assai, no? Allora faccio la ruggine sì, e poi questo non funziona. Non è possibile, ma questo non funziona. Se si arrugginisce tutto, quante volte funzionava. E non credo che non funziona. Sarà tutto ossidato, è paghisso. Fate uno shampoo che si contatti, Luca, fate uno shampoo, magari con l'acido muriatico, che la ruggine ne raggava. L'acido muriatico ne cava la ruggine. Ma come hai preso a fare il radio, non una? Mi, Gesurai. A tre, Nami, Gesurai, a tre, a tre, a va, per me. Compresa, a tre, a tre. Epita. Natali, migliorendi è la situazione mia, 3 a 3. Io credo che n'abbia una rugginosa burro, invece n'ha 3, cazzo. N'ha 3. Io credo che non abbia nulla più, a te immaginarci. Pensavo che ci aveva fatto un bacche buttare, aveva fatto, e l'aveva fatto tutto quanto in dollari. No, in euro no, in dollari l'aveva fatto, anche l'ha mandato all'estero, l'ha mandato. A chi Luca è compra e vendere? Questo deve comprare di un paggio, Millumi! Beh, Luca! Cazzo, non devo nessuno, paggio 2440, 757, GX, non devo nessuno, babbo! Se non vai nessuno, che vuoi che ricompareggia? Se non vai nessuno, tu prova a dare il tracco malato, guarda se qualcuno ricompareggia! È vero, ha ragione Giulia, non c'è nessuno più, cazzo, Luca! Ci siamo pregati, entra, non entra, che sei stravagante, sì, quando vai così. 2440, 757, ho dal dito, sì, boh. Comunque. È vero, Natali, quando uno non riesce a sbacciare, cosa deve fare? Deve vendere il tracco malato, se vende il tracco malato, può darsi che riesce a vendere. Ma tracco malato non ne vendi, Luca. Che è pizzina, però che se funzionava bene, non manco si inteso cosa ha detto, mi passa che l'altro è rugginoso. E allora, cava della ruggine, così non manco, guarda se riesce a vendermi, cava della ruggine che va in alto, la vita parecchia duri, guarda se qualcuno si innamoreggia e compareggia. Allora, non avevo nessuno Giulio, bobo, dai, andate un po' così. 3,40, 3,50 se ci sono puscendi. Allora vuoi che ti faccio io, questo giocattolino mio, allora vuoi? Io fammi l'offerta, te lo sto mandando subito a casa. Allora, vediamo la china, Giuseppe, 7, 30 mobili. E io devo capire il tracco malato, mi. Hai tracco malato, allora devo dire il tracco malato. E poi va Giuseppe un microfono, io sono di russo, che vale più dello baracchino, io sono bella Giuseppe. Muro, rimunito, bello, lucido, anzi, guarda di butto, buco, dentro la cattola, e da voi di butto dentro al garascio. Il microfono Naggio 4, Naggio, di chi c'è a tavolo, due ricevitori, da voi va giù, lo baracchino, sono qui da attendere, Naggio, un altro, pure un altro, Naggio, mira, anch'io, no? Insomma, già ne ho anche io di roba ancora, quella che mi è rimasta, faccio aggiudando tutto, non faccio più nulla. Tanto ma la gente che vè, fisso che a fine siamo vendi. Allora, a fine abbiamo fatto, guardate che prendi, che ha fatto, completa era a fine. Noi, e lo credo gli altri, ormai io faccio l'MC60, sempre bello brillante, di lusso, e poi faccio sempre l'antenna, la turbo, poi faccio la Game Master, posso la pulisca, e io me ne pongo una autocostruita, che vedaggio già fatta già da tempo, che si è pure arrombata. Da poi faccio pure una boomerang, faccio questo con un antennino di 40 centimetri, è alta sarà 1,20 m, è l'antennino, un radialino, là, quanto sarà? 40 centimetri. Ma visto che la giù, se si esagerà, vedaggio, avevo una cinquantina d'anni, vedaggio, mi s'antenna, è una frusta vera, Natalì, che prima era una delle primissime antenne che io ho avuto, e ce l'ho ancora, ma sono passati alla moco 50 anni, E di chi se ne ha regalato 4 o 5 di chi si brusta in nere. A me faccio 2 PLC 800, 2 base magnetiche, una la ginocchia, la base magnetica con la PLC 800 e una la in macchina, nel lungofano della macchina, che magnetica, rumattesi. Ma non ne so cui trattendi, non so cui scendere a lungo, cioè, non mi sento bene, è inutile. La BLC 800 l'ho regalata io, l'ho regalata almeno un 4-5 anni fa a un radioamatore, non so se la sta usando, se l'ha usata, se ce l'ha venduta, non lo so, boh, o se c'è la lampada della Mondetta, non lo so, comunque era nuova, la BLC 800, che era una meraviglia, quell'antenna lì. L'ho data, intanto io in macchina non ne stavo più mettendo, anzi non ne avevo più messo. Sono più di 20 anni che stavo lì in macchina, devo immaginare, di più di 20, forse 30, forse 30 anni, per cui non mi interessava più. L'ultima volta si dà giù un po', ah no, aspetta, la macchina no, ma la bonia era un motocarro, la mettevo nel motocarro, poi mi spostavo vicino qui sempre, vicino a casa, e parlavo sempre con la Corsica, con Antonio Felicen, Corsica 1, parlavo, cioè, adesso mi è venuto in mente, sì, la usavo nel motocarro a un'altra lì. Ma neanche io ne sto più mettendo in macchina, non sto neanche uscendo più, cosa? E su rullare errare volte, devo fare il peso, a che cosa devo garringare, se non manco la macchina sono con biglietti di più, è sempre in femma, mi stava a rovinare pure chissà. Sì, da voi di un mese e mezzo che era sempre in femma la mia, la giù muovita le mani, metto un poco, alle mani la giù muovita, per andare a comprare la leva minerale. Vicino a casa, mio, io ho fatto, tu pensa, va già 15 anni, questa macchina va appena 43 miglia e 700 chilometri, in 15 anni, è possibile, era più di un mese e mezzo ferma, però ogni 3, 4, 5 giorni la metto in moto, una ventina di minuti la metto in moto per la batteria più che altro, se non mi tocca ci abbattono la batteria, quanto ho già fatto 2 anni fa. La mia ragazza così ferma e mi si era guardata la batteria, l'ho comprata nuova, 80 euro, e chi c'era stato trattendo un poco meglio, ma che giugna con 3-4 lì la bonga in moto, allora, ma cosa ricarica, non fa l'altro. Sì, ma pure un motore va a dire, a chi si non abbona in moto la prima cosa che fa è la bomba di leva. Chisso sì, è pure chisso infatti, pure chisso. Lui si è imputato, si è ma un poco tutto, ma sai cosa posso? Gira, aspetta che sto combacendo un po' con il microfono, che inavvertitamente ha già toccato il potenziometro di là e di là un meaccio. Gira la buona vostra trattata di più a me figliola, deve fare i chilometri, dogna ne fate un bel di chilometri. La posso, così riposa la macchina manna, anziché tratta troppo la macchina manna, che va già di mattessi chilometri più o meno della mia, infatti è intorno ai 40.000 chilometri, io nasce 43 miglia, devo immaginare 43.700 e la C3, mentre invece la cosa, la Ford, una 41, una cosa del genere, la 41 più o meno, tra un paio di mesi viene superato anche lo chilometraggio. Vabbè, comunque, non è importante. Infatti, la mia è sempre ferma la macchina, lo stesso, l'ho usata venerdì, ero dalle parti tue, sono venuto giù. Io ho messo, quando saranno 2 mesi fa, all'incirca 2 mesi, 2 mesi e mezzo, la pompa della benzina, il galleggiante della benzina, ho dovuto sostituire 240 euro perché si era usurata qualche guarnizione o qualcosa del genere, e dopo che la mettevo in moto, quando spegnevo sentivo l'odore di benzina. Ho subito telefonato al meccanico, mi ha detto la pompa del galleggiante della benzina. E allora, quando ti piace me la porto, te la sto portando subito domani mattina. Va bene, sono andato, mi sono buttato e la sera me la tornata, 240 euro, il galleggiante nuovo. Sotto il sedile di dietro, con la galleggiante lì, in corrispondenza del serbatoio. E infatti. Se non mi basta c'è qualcosa, un macello, mamma mia, mi è venuto un dolore dove mi hanno operato all'Irnia, inguinale, Gesù Cristo mio, a punta di gruppo in suo candente. Ed è stato operato all'Irnia, ma adesso, da poco? E allora, saranno 2 anni là. Però mi è venuto questo dolore, in questi giorni ce l'ho a me. Cosa, guarda, tacchi non me ne vuole tacchi, non per luogo, gira io, mi tocca andare a pagamento pure a me, a Innora Mara. Infatti la venendo no? Con la sanità non ci sperare più, perché ormai tutti a pagamento, anche le visite eccetera, tutti a pagamento ormai sono, per cui non c'è da stare molto allegri, no? Purtroppo è così, bisogna aprire sempre un portafoglio, se uno si vuole curare deve aprire il portafoglio, ecco come la suia. Da Vigne prende la sanità italiana, Banca dell'Aia, e paghi sull'Europa, non ha stanziato 5 miliardi per la guerra in Ucraina, fa ammazzare i massoni, comprare le armi per l'Ucraina, ma fa ammazzare i massoni, non basta neanche andare a ammazzare roba di 500 miglia in Ucraina, no, non basta ancora, bisogna distruggerli tutti, senza considerare che la nazione è tutta tanta polverizzata, tutta terra, e ormai non è più nulla. E allora chi si russi cazzo l'hanno distrutta, ogni tanto lampano un po' di missili. E non è teso ieri che si è attentato che arrivato in Russia, 840 morti hanno fatto a un tiro, così mi sono entrati questi delinquenti dell'ISIS e hanno cominciato a mitragliare e a mandare a buttare bombe a mano in mezzo alla gente, dove c'era una specie di festa, concerto, non so di preciso cosa era, e hanno ammazzato a un tiro, hanno ammazzato più di 140 e non so, roba di 500 feriti, una cosa incredibile, purtroppo. Ma dimmi tu, a che punto siamo andati? Siamo in un momento molto critico, secondo me. Luca, dopo andare in Russia, no, già lo sai, in Kiev è pericoloso, non c'è andare? Luca! Non ha gana, è demoralizzato a chi non ricompareggia nei civaracchini. Lo giurico nella magna della ringa, questo è. Il congelatore, lo goto, lo bocchito, se no la pizzaglia della ringa mi si era più mandata, non manca via avvisato un poco. Oh Luca Lingemanno, Lingigotto, cosa sei, Lingigotto o Lingemanno? Non è possibile, non ne possiamo fare né calcio, né rigotto né lana, e ne manco più da Ricciolucca, non ti dà di udienza, di snobba Ricciolucca, noi chiamiamo burba gentilezza e tu fasi finta di nuda, però è sempre accusando un disarecci di Bucumi. E allora, infatti le arecci se le abbiamo sostituiti, ha attaccato 2 arecci di buco, l'ha attaccato, e poi si è trasformato il coso, narrazione, è molto ascoltone diventato. E allora, non lo può fare vedere di nessuna di rimanere. Non è possibile. Ah, c'è una gara di intendi a Claudio, non l'ho più inteso, siamo già un anno che si è accusato in frequenza, E quello è passato di livello, e a noi ci snobba, capito, no? Io dico, ma che accusando di zene, niente. cervello ormai non lo sentiremo più qua. E chi lo sa? Boh, a meno che non cambia idea. Comunque, saremo a vedere. Magari qualche telefonata ogni tanto possiamo fare, per cui va bene lo stesso, non c'è problema. E infatti io non l'ho né visto né sentito più. E visto, sono 4 anni che sta finito, e chi l'ha più visto? Non l'ho più visto, per tutto il Covid non l'ho più visto, quanto è durato il Covid, in tutto questo periodo non l'ho più visto, assolutamente. E anche io sono da molto che non lo vedo. E vabbè, che vuoi che te dica, scatta, le 11:20 sono già, allora cosa è passato un po' pure la manzanata, Ida è ancora in gigia, c'è pittina. Le 11:23 minuti precisi. Va bene, dai. Allora Luca, dai, a Massarro, così a Roma con una cosa in più e non ridi. E non ti posso più ridire. Cosa ti credi? Cosa ti credi? Che sono un coso io, uno. Cosa ti dici? Che sono politico fallito, cosa ti chiama? Un grillo. Oi, ma che dai? Ma che a me non mi ha mai fatto ridire, o Natalì? A me mi ha fatto solo chi fu questo. Sì, infatti, grillo. Mi sono che era comico, a me nemmeno non mi faceva ridere, assolutamente. Era antipatico pure. Ma un bel antipatico, a me a pelle, io non l'ho mai potuto sopportare, a pelle proprio. È stato molto antipatico, ma infatti quando c'era lui in televisione cambiavo canale, perché non mi è mai piaciuto, mai. Comunque, vabbè, c'è gente che l'ha presa e ce lo guarda, io no, nella maniera più assoluta. Ma poi quando entra in politica ancora bicio, ancora più poco il buio di dire. Allora, noi ti diamo un po' di cavolate, vabbè, là, giù. Così chi su Luca mi ridi a crocco, gratis, ma va a Sanremo, gatta, non ridi più, non siamo vagliacci due, hai capito? Hai capito sì o no? E adesso se vuoi ascoltare qualcuno ti accende la radio, perché io chiudo, Natalino, lo stesso, per cui, allora se vuoi ascoltare qualche cosa, o ti ascolti il QRM, come ti sei abituato a fare, oppure ti ascolti la radio. Non risponde, no. È una cosa che non si gridi. E tu forse si credi che stai facendo di piacere a noi. A me non me ne basta nemmeno parlo contro il cazzo, ne parlo contro il ceccio. Del suo silenzio, Natalì. E allora, potrebbe contribuire, gatta, alla rinascita di questa 27 MHz, che è un canale di morti. Forse è canale molti, frequentato da certe persone, che sono già cadaveri, da cosa vuoi va? È logico che diventa un canale di molti. Sono lì, sono morti, sono tutti a cuscende, Parisi, il muro, sono passato in ascolto, non ti fanno i dubbi, è stato il canale bravo. Ma cosa ti fanno i dubbi? Ma tu sicuro non sei che l'altro si accontenti? Ma cosa sei? A me non vengono nessuno in ascolto. L'hanno venduto, tutto l'altro l'hanno venduto, non ne hanno più di radio. Infatti ha già notato questo, come ti sarei di voi, da voi stranamente entra sempre qualche duno, cioè, ma che strano, tutti coincidenti so. Vai, ciao, domenica prossima. Allora vuoi dire che qualcuno che ce l'ha contro di noi? Ah no, è vero, ma voglio io quando noi, usato ma non hanno già stessi robe, tutta la lì, e non c'è mai nessuno, dunque, qualcuno che entra, nessuno entra. Avevo questa buccia, quando usarlo, ma mo due di, alla ragazzesa mi si entra qualcuno, che ce l'hanno tutti contro di noi giù, non vi credo, io non ho fatto male a nessuno. Buttateci tutto, dovete buttarci tutto. mi entra due lastrumi. E beh, Marcolino. Salve, adesso anche l'altro emisfero mi si sta svegliando, Nathalie. Da quando ti ho mandato il messaggio mi svegliavo e mi riaddormentavo, mi svegliavo un po' e mi riaddormentavo. Buongiorno a tutti, ho capito che state chiudendo o ho capito male? E ancora no, già è presto, mezzogiorno meno un quarto chiudo io e dopo devo cucinare. Ieri c'avevo un paio di amici a pranzo, sino alle ringhiduriridi. Ciao Marco, no, perché stiamo facendo, dobbiamo fare le prove, no? Perché lì Luca ha detto che quando chiudiamo noi entrano gli altri. Io non ci credo, perché io quando chiudo lascio acceso lo stesso, e Luca non sento nessuno. E che significa che quello che ha detto non corrisponde a verità. Eppure Giulio, io certe volte mi sono accorto, magari che adesso uno chiama, tu chiami, attenzione 10, attenzione niente. Poi come lasci un po' di silenzio, lo fanno con tutti e allora entra qualcuno a chiamare. Oppure due parlano, stanno un pochino, poi chiudono, come chiudono loro? Passaci un minutino o due e chiama qualcun altro, è come che aspettassero che se ne andassero quei due per entrare. È tutto così un po' il baracchino, non c'è coesione, io l'ho sempre detto. E quindi fenomeni paranormali incontrollabili potremmo chiamarli, un po' ha ragione Luca. No, sono solo coincidenze, Marco. Ciao, ciao. Coincidenze che coincidono un po' troppo, però, capito? E magari quello non vuole sentire quell'altro, allora aspetta che chiuda, magari fa passare qualche minuto, poi fa la sua chiamata, viceversa magari poi chiudono quei due tratti dopo e chiama qualcun altro e si tira così avanti. E questo è il bello e il brutto del baracchino anche, dai. Quelli che fanno così, o Marco, ammesso che ci siano questi, quelli che fanno così sono super galleggianti, per non dire stronzi, vabbè, l'ho voluto chiarire, no? Visto da Giulio che non me ne sono accorto solo io, ma anche in questo momento sai quanti ce ne nascosto. Oh, yeah. Lasciamo perdere che non è a oggi che me ne sono accorto. Chiudi, la togliere solamente un minuto, come ha detto Marco, e chiamano, capito? Ma dai, una voce, due voci, può capitare, ma dai, troppe coincidenze da voi, o Giulio, fa forse morendo la goccia. Poi come non entra più nessuno, allora solamente si è fatto gente che era una settimana che non è entrato, due settimane perché vedeva il silenzio in radio. Vai, Marco. Scusate che sto mangiucchiando qualcosa. C'ho ancora le corde vocali addormentate anche. E quindi, cosa volevo dire a Natalino? Che l'altro giorno, di mattina, stavo usando quel baracchinetto, forse ti avevo mandato la foto, è un baracchino piccoletto, omologato, basso, piccolo, non sa nulla, però c'ha quel microfono col DTMF, perché in alcuni paesi permettono di usare quella funzione per accedere, non ho capito bene a cosa. Capito? Mentre da noi magari non si usa, gli italiani non lo usano. Anzi una volta la chiamavano tipo chiamata selettiva, cioè non più parlare con uno escludendo altri, capito? E credo che abbia i subtoni, ecco anche a cosa servono qui, quella tastiera sul microfono, i subtoni, non so, boh. No, non l'ho manco vista perché tanto da noi non si usa. Sì, sicuramente sono subtoni. Quello che sta usando in macchina che c'ha il pipiriolo, piripiriolo, cioè un pipiriolo strano, cioè. E l'antenna era quella da un metro simile B-banda. In effetti la Sirio ne fa uno uguale, è uguale. Ed è CB e VHF. Esiste, si chiama Sirio SG CB VHF, ti fa la 27 e i 145 MHz, capito? Se c'è un radioamatore che è anche CB, quella la può montare, l'aspetto è molto molto simile. Naturalmente in quella della 27 vedi che la bobinetta è un po' più lunga, un po' più lunga di quanto dovrebbe essere, no? Perché è fatta per avere una bobina per la banda nostra solo, capito? Sì, ho capito, ho capito. A me l'unica cosa che mi manca è un'altra antenna per ascoltare. Se avessi avuto un'altra antenna così sarei stato di lusso, perché mi sarei messo ad ascoltare con questa dove ci sono gli ex, e poi se entrava qualcuno entravo qua. Stamattina c'era gente, ma arrivava a bomba proprio. Ma mi hanno suggerito che la notte c'è Claudio di coso, di Muros, che va sui canali alti verso 27600 e qualcosa, e dice che fa gli ex lì. Boh, questo me l'hanno detto ieri, me l'hanno detto in USB, perché in questi canali non si è mai più sentito. Boh, io sono un anno senza sentito come minimo, Marco. Cosa vuoi che ti dica? Quello lì a me una volta l'ho chiamato e non mi ha risposto, ma una volta non ha più favillato. No, aspetta, ma non ci state alludendo? Gente che parla anche in Sardegna su canali alti, volete dire? E allora? Si fa solo di ex quello lì. L'ho chiamato io, gatto, mi ha ignorato, gatto. Quindi mamma mia, gli stavo sfondando tutto. No, perché io una notte per puro caso, carellando, ho sentito in banda laterale una persona di Muros, dai, Claudio, si può dire. Però stava parlando con quelli che sono lontano per me, non so dove siano, due, uno è, non so se sia tipo Isola Rossa, e l'altro forse ancora più lontano, Thierry. Io non li sentivo niente, proprio zero totale, sentivo solo Claudio di Muros, che ovviamente arriva bene, ma gli altri sono inascoltabili, quindi sentivo parlare solo lui, quindi non sarebbe stato inutile entrare in quel tipo di ruota, ecco. Riprendi Giulio, se lo vedevate a lui. Sì, è lui. Sui canali alti, intorno ai 27600, 620, 625, una cosa del genere. Così ieri me l'hanno detto, che lui dice che va alla notte e va lì a fare gli ex. Poi naturalmente quando c'è la propagazione, ma no, perché lui si era iscritto, non so, ad un club di fuori, no, del continente, e evidentemente ha degli amici che si sente su quelle frequenze lì, non lo so. Sì, oppure parla con quello di Ozieri, parla un certo Luigi, che anch'io una volta c'era lui, questo di Ozieri, questo Luigi, io a lui non lo sentivo, non arrivava, ma lui sentiva me, perché poi Claudio mi aveva fatto la ponte e mi aveva detto sì che ti sente, però io non lo sentivo a lui, questo di Ozieri, un certo Luigi di Ozieri, ma sentito la mente? Io li sentivo tutti. Li sentivo quando entravano tutti in banda laterale, ci ho anche parlato. Boh, non so, comunque non me ne frega niente. Se lui vuole andare su quel canale che vada, vuol dire su questi canali non sta più entrando, si sarà stancato, evidentemente preferisce andare su quella frequenza lì. Lasciamolo andare, lasciamolo fare, magari ci attacca al lineare, ci attacca a quello che vuoi e riesce a parlare con quelli del continente. Buon per lui, va bene, vai Marco. Eia. Comunque a una certa ora della notte poi però la propagazione va a scemare anche da prima, quindi a meno che non siano notti particolarmente favorevoli come propagazione, però che siano anche pulite, non quella propagazione sporca dove senti mezza Europa, allora si puoi far di ex. Ma poi non so nemmeno che antenne utilizzi, non si utilizzano direttive che magari possono aiutare molto a raggiungere direttamente certe zone, eccetera. E vabbè, da ognuno fa il tipo di attività che preferisce. Certo che il baracchino è stato, cioè, ci sono giorni in qua che magari lascio acceso, magari non chiamo perché sto facendo roba in casa, però certe giornate intere che non senti nulla, né il 10, né il 12, né il 23, ogni tanto fai carrellata, nulla, tutto vuoto, solo propagazione c'è. Sì, infatti. Io peccato non posso salire sul tetto, se no qualche antenna me l'avrei messa. Possibile, almeno per me. Infatti sono castrato, perché non ho antenne. Questa qui è sorda, l'antenna, per le altre frequenze, quindi che fai? Non puoi vanta. Mi sarebbe servita un'altra antenna almeno per ascoltare la 27 e così mi sarei messo a ascoltare le altre parti con questa. Non lo sapevo, anche perché sono anni senza sentirlo il padre in frequenza. Nelle frequenze e nel telefono, anche perché il numero di telefono loro l'hanno cambiato, io non è più possibile contattarlo. Vabbè, pazienza, dai. E infatti, gira gira, mi compro una boomerang, mi compro e me la metto fuori dalla finestra per ascoltare qua, e così sono sempre in banda laterale, che almeno lì parlo con gente lontana pure, e non di notte, perché tutti gli ex li ho fatti di giorno io. Sono arrivato anche in Canada, Nord America, da tutte le parti. Sì, quando c'è buona preparazione è possibile arrivarci, no? Non c'è problema. L'interessante è che sia favorevole la preparazione, per cui già è possibile. Io già ci sono arrivato anch'io in Florida addirittura, ma comunque non è che mi interessa più di tanto parlarci con questa gente, intanto hanno una lingua diversa da quella che parlo io, per cui non è possibile fare grandi chiacchierate, non c'è problema. Luca, non riprendi, no? Luca si sta facendo prezioso. È prezioso senza preziosismo, però. È prezioso senza preziosismo. Mi fa il prezioso, fagata. Ma ti pare che io devo andare a Africa, Lugata, fa entrare, fa vita. No, infatti no, ma non è che non si interessa proprio più niente, niente, non devo far vedere che non le parli, chi te ne frega. Però per dire, no. Però a questo punto, visto che è considerato che sia facciata, noi per educazione lo rilanciamo, se poi non lo riprende è lui che deve comportarsi bene, non noi. Noi ci stiamo comportando bene, perché noi lo rilanciamo, ma lui non riprende, meglio Baedo. Avanti Marco. Lasciamolo fare, che sta creando, lui sta sempre facendo roba, costruendo, stampando 3D, eccetera eccetera. Ogni tanto mi manda qualcuno di quei lavori che fa, sempre vendita, sempre in movimento, sembra Archimede pitagorico, sempre una se ne inventa. Sì, anche io, pure se mi sentivo male, mi ha sembrato il computer. A pezzo me l'ho fatto, piano piano, sto aspettando ancora la scheda video, gatta, che doveva arrivare ieri e non è arrivato un tubo, dici che era in consegna. Ma ti arriverà lunedì per forza, vuol dire che non ce l'hanno fatta in tempo utile, perché poi il sabato per esempio da me il corriere non viene mai. Sai quale viene solo? Il corriere Amazon al massimo il sabato, però io me lo faccio consegnare in un punto di ritiro che c'è qua a fianco, e un caffè, un bar caffè che fa tutto, paghi le bollette, ti fa le ricariche telefoniche, ti ricarichi la carta prepagata, tutto fa, tutto quanto fa, ritira anche i pacchi Amazon, quindi anche se tu sei assente a casa, si topa con Amazon, viene depositato lì, se lo tengono una settimana, non faccio altro che fare 100 metri e ritirarlo, presenti il codice che ti arriva tramite email, tramite posta elettronica e lo ritiri. È comodo, perché così non devi stare tappato a casa aspettando i pacchi. Però ripeto, vale solo per Amazon. Sì, lo so, io manco quei 100 metri faccio, se voglio lo dico a quelli del tabacchino qua sotto, e poi abbiamo molta confidenza con le commesse lì, figurati se non me lo ricordo.